felicità. Quando dolcemente tra le braccia ti terrò, forse la mia mano tremerà, forse la tua bocca tacerà, e allora sottovoce ti dirò: dimmi, dimmi che mi vuoi bene, come sai dirlo tu, boccuccia di rosa. Primavera, fiore di gioventù, boccuccia di rosa. Cara, dimmi che mi vuoi bene, dimmelo con un fior, un romantico fior. E se sarà una rosa, la bocca ti bacerò. Dimmelo con un fiore.